GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Su Varsila useremo tutti gli strumenti, dice il ministro del lavoro Calderone. Silenzio del gruppo sull'iter di licenziamento. No comment da parte di Danieli sul perché del nome di un noto ambientalista udinese nel ricorso al TAR per ottenere le firme antiacciaieria. Manifatturiero giù del 6,6% in regione in 15 anni, ma siamo tra i migliori del paese. A Trieste cresce il valore industriale. Non è solo maltempo, gli eventi estremi in regione sono legati al cambiamento del clima, lo dimostra una ricerca dell'ICTP di Trieste. Basket, la Pudine si aggiudica sul finale il derby contro la Pallacanestro Trieste, match tirato finisce 87-83. A Pordenone torna Extracom, un fine settimana con rassegna dedicata al mondo del fumetto, del gioco e della cultura pop. 12:31 minuti, buongiorno da Maria Spezia e Rita Micoli. Cominciamo ancora una volta dalla crisi. Varsila, resta in silenzio il gruppo finlandese dopo il no alla proroga della solidarietà, possibile espediente prima di passi onerosi verso il licenziamento delle maestranze, mentre si pensa ad una modifica da parte della politica della legge antidelocalizzazione per prolungarne i tempi. Martedì un nuovo incontro a Roma, tra due settimane esatte la mobilitazione a Trieste. Mercoledì sera, all'indomani della rottura al tavolo, Varsila emette un comunicato stampa. L'azienda, si legge, avvierà l'iter informativo prima di iniziare la procedura propedeutica al licenziamento collettivo di 300 dipendenti, ma da quel momento nessun passo ufficiale è stato intrapreso. A questo punto molti si chiedono se Varsila stia prendendo tempo per poterci eventualmente ripensare. Il muro contro muro potrebbe costare molti milioni in termini di sanzioni e di stipendi pagati a lavoratori che non hanno niente da fare. Altra incognita per Varsila è la possibilità che il legislatore modifichi la procedura prevista dalla legge antidelocalizzazione, allungandola oltre i 6 mesi attualmente previsti. Se ne è parlato in regione nell'incontro tra sindacati, membri della giunta e parlamentari ieri sera. Rendere più complessa e difficoltosa la procedura ci farebbe guadagnare tempo, ha affermato il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Sulla stessa linea la deputata democratica Deborah Serracchiani. Ho proposto la modifica della legge già nel milleproroghe in discussione alla Camera, ha detto l'ex governatrice. Useremo tutti gli strumenti che la legge mette a disposizione, ha commentato la ministra del lavoro Marina Calderone sulla vicenda. Il presidente della commissione lavoro alla Camera, Walter Rizzetto, di Fratelli d'Italia, assicura il massimo impegno per salvaguardare i lavoratori. Tutti concordi nel portare avanti l'accordo di programma per il quale martedì ci sarà una riunione a Roma. L'obiettivo è dare un futuro allo stabilimento. L'opzione più concreta è legata ad Ansaldo Energia. Intanto è partita la macchina organizzativa per la manifestazione del 27 gennaio che coinvolgerà tutta Trieste. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Nel ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da parte del gruppo Danieli contro la Regione che aveva negato al gruppo siderurgico copia delle firme della petizione antiacciaieria, c'è il nome di un privato cittadino che ha reso noto oggi il fatto alla presenza dei comitati. C'è il nome di Marino Visentini, storico ambientalista udinese, nel ricorso al TAR da parte della Danieli per ottenere i documenti amministrativi relativi alla petizione contro il progetto di acciaieria a San Giorgio di Nogaro. Nel ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, l'azienda di Buttero chiede che venga consentita l'acquisizione di copia delle sottoscrizioni di tale petizione e delle correlate loro autenticazioni. 21.974, alla fine, le firme raccolte dai comitati. Il ricorso viene anche notificato al signor Marino Visentini, chiamato Mario nell'atto, dall'Osservatorio Civico contro le Illegalità, nella sua veste di controinteressato, quale, per certo, sottoscrittore della petizione pubblica ritenuta lesiva dalla Danieli della sua reputazione. Bisogna specificare che in un atto del genere è necessario indicare sempre un controinteressato e che al momento Visentini non avrebbe conseguenze legali dall'essere citato nel ricorso. Tuttavia l'azienda non commenta il perché sia stato scelto proprio lui. Danieli contesta il no all'accesso agli atti da parte della Regione, sostenendo nel suo ricorso di avere diritto a consultare i documenti amministrativi e che nomi e autenticazioni siano parte della stessa petizione. Decisiva, si legge, perché la Giunta regionale rovesciasse la propria posizione inizialmente favorevole all'acciaieria. Sostiene inoltre che il diniego per motivi di privacy non sussista quando si sottoscrive una petizione pubblica. Obiettivo, si legge sempre nel testo del ricorso, una volta conosciuti i nomi, assumere le iniziative giudiziarie volte a difendere la propria immagine commerciale e la propria onorabilità, vista l'accusa ritenuta gravemente lesiva di irreversibile danno ambientale. Parla di impatto intimidatorio sul diritto di espressione dei cittadini e sullo strumento della petizione popolare il consigliere regionale Fori Onsel, presente alla conferenza stampa. Un atto che manda un messaggio anche in altre regioni, aggiunge. Onsel si era, tra virgolette, autodenunciato affermando di averla sottoscritta lui stesso la petizione. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sebbene il settore manifatturiero del Friuli Venezia Giulia contribuisca al PIL regionale solo per il 25%, tra il 2007 e il 2022 il valore aggiunto reale dell'industria manifatturiera della regione è diminuito del 6,6%. Tra tutte le regioni presenti in Italia, solo la Basilicata con un più 35%, il Trentino Alto Adige quasi più 16%, l'Emilia-Romagna più 10 e il Veneto più 3% vantano risultati migliori del Friuli Venezia Giulia. Il dato medio nazionale è stato del meno 8,4%, con punte di contrazione in Sardegna addirittura del 52%. A dirlo è l'ufficio studi della CGA di Mestre. Tra tutte le 107 province monitorate, quella che tra il 2007 e il 2021 ha registrato la crescita del valore aggiunto industriale nominale più elevata è stata Trieste con oltre 102 punti. Daniela Rossetti è la nuova segretaria di azione per il Friuli Venezia Giulia, eletta all'ultimo congresso del partito, passa il testimone della segreteria triestina ad Arturo Governa. Oggi al Caffè San Marco di Trieste è la sua prima uscita pubblica da responsabile regionale. 52 anni, project manager di una multinazionale basata negli Stati Uniti, Daniela Rossetti mette al centro della sua azione politica in Friuli Venezia Giulia la difesa della sanità pubblica che, dice, questa amministrazione regionale sta smantellando in modo scientifico partendo dai servizi territoriali. Il ricorso ai medici a gettone nei pronto soccorso o la mancanza di medici di base, avverte, non possono essere attribuite a una carenza di professionisti peraltro comune a tutta l'Italia. Perché in altre regioni come il Veneto a noi vicino i medici ci sono? Perché uno deve strutturarsi in modo che da essere attrattivo rispetto ai medici che ci sono, quindi con salari, con una struttura organizzativa corretta, con dei turni di lavoro umani e non disumani come purtroppo ci sono. Quindi bisogna strutturarsi, bisogna avere soprattutto la voglia politica di farlo, perché io non posso immaginare che questa sia incompetenza. Qui c'è una volontà scientifica di smantellare la sanità pubblica verso e a favore del privato. Seconda priorità, la valorizzazione della posizione geografica del Friuli Venezia Giulia, obiettivo che passa attraverso lo sviluppo di un'economia del mare come volano di tutta l'economia regionale, attraverso la creazione di un hub di innovazione e ricerca per essere attrattivi verso giovani talenti e diventando protagonisti nella definizione delle politiche europee di immigrazione e di asilo, per inserire la rotta balcanica a fianco di quella mediterranea. Trieste, Alessandra Zigaina, TGR Friuli Venezia Giulia. Si è spento Giovanni Cernoia, storico addetto stampa del comune di Trieste, aveva 61 anni ed era ricoverato dall'inizio di novembre. Cernoia è stato anche un grande tifoso della Triestina, tutta l'amministrazione comunale vicina alla famiglia, ricordiamo la grande professionalità di Gianni, ci mancherà, ha scritto in una nota il comune di Trieste. Un gruppo di ricercatori dell'Istituto Internazionale di Fisica Teorica ICTP di Trieste ha provato che gli eventi meteo estremi che si sono verificati in Friuli Venezia Giulia negli ultimi anni sono diretta conseguenza del cambiamento climatico provocato da emissioni umane. Non è stato il semplice maltempo a causare alcuni eventi meteorologici estremi che hanno interessato la regione. Nella piattaforma web ClimaMite, l'ICTP analizza in tempo reale quando un evento è anomalo rispetto al passato, la ricercatrice Erika Coppola. Questo per esempio è stato fatto per gli eventi come Cerberus di quest'estate, oppure gli eventi della tempesta che c'è stata qui alla fine di agosto, che è chiamata Rea, che ha procurato tanta pioggia a Trieste, si è allagata Viale Miramare. Tutti questi eventi vengono analizzati e per esempio per questa tempesta di agosto si è concluso che stata dovuta per la maggior parte al cambiamento climatico. Il Mediterraneo è uno dei luoghi più vulnerabili ai cambiamenti climatici. Le temperature si sono già alzate di 2 gradi rispetto all'era preindustriale. Si osservano continui aumenti della temperatura superficiale del mare, quindi abbiamo osservato delle heat wave marine, quindi delle ondate di calore marine che sono anomale rispetto al passato, e ovviamente ci sono anche ondate di calore come quelle che abbiamo osservato quest'estate recente, che è stata veramente un'estate molto ricca di questi eventi estremi. Abbiamo aumenti di precipitazioni dovute a tempeste violente come quelle che hanno colpito il Friuli anche in queste estate. Le previsioni per il futuro non sono rosee. C'è un aumento di precipitazioni estreme, i cicloni, questi quelli che si chiamano Medicane, che possono influenzare il clima nelle parti sud ma anche nell'alto Adriatico. Poi abbiamo un aumento di rischio di condizioni che conducono a incendi. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Ora uno sguardo al meteo, il cielo è sereno sulla regione, le temperature registrate alle 11 a Trieste 7 gradi, a Udine, Gorizia e Pordenone 3 gradi, a Forni di Sopra 3 gradi e 5 decimi, a Tolmezzo 2 gradi, sul Piancavallo 0, a Tarvisio meno 1 grado e 5 decimi, sul Monte Lussari 1 grado e 5 decimi positivi, sullo Zoncolan 0, sulla costa grado 4 gradi, Lignano 3,5. Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per le prossime ore: cielo in prevalenza sereno dalla sera, aumento della nuvolosità su bassa pianura e costa. Ora lo sport, il basket, un derby tiratissimo, quello di ieri sera tra Apudine, Pallacanestro, Trieste, con i friulani che sono riusciti ad aggiudicarsi la gara di ritorno per 87-83, e resta inviolato il Pallacarnera. Udine festeggia, il Carnè risulta, mentre Trieste si mangia le mani. Merito della lucidità nel finale di Clark, dei 15 tiri liberi sbagliati da Trieste e delle scelte finali dell'allenatore biancorosso Christian, che disegna una rimessa complicatissima e regala il pallone agli avversari sotto di 2 a 4 secondi dalla fine, mandando poi Udine in lunetta per ribaltare pure la differenza canestri. Tutt'altra partita rispetto all'andata, ritmi alti, belle giocate, agonismo, primo quarto equilibrato con Brooks e Rozier da una parte e Monaldi dall'altra a segnare con regolarità. L'Old Wild West ha un problema con i falli e il metro arbitrale, problema che si trascinerà tutto l'incontro. A fine match il presidente Pedone lo fa notare: la vera sofferenza, però è lo sport più bello del mondo, bellissima partita, non voglio far polemiche perché purtroppo molto molto incisa da personalismi arbitrali agghiaccianti per i quali mi farò sentire. Udine chiude sul più 5 la prima metà, ma paga la difficoltà ad avere continuità per i problemi di falli di Daros, De Lie e Gaspardo. Ne approfittano i biancorossi che, nonostante dalla lunetta siano disastrosi, riescono ad andare avanti. Trieste sembra in controllo grazie ai rimbalzi in attacco e alle giocate individuali di Justin Reyes. Va sul più 6, mentre Lapu, perso Vertemati espulso, è in bonus dopo 3 minuti. Gli ospiti ne approfittano solo in parte perché continuano a regalare qualcosa sia in difesa, 8 punti subiti di fila evitabili, che dalla lunetta. Brooks, infallibile e migliore in campo, fa 0-2 sul più 1 e la luce per Trieste si spegne, anche perché l'allenatore entra in confusione. La guardia americana in velocità firma il nuovo pareggio con 28 secondi dalla fine. Poi però Clark approfitta del cambio sistematico della difesa triestina, Reyes scivola, il ginocchio fa crack e l'esterno Apu realizza il più 2. Coach Christian disegna una rimessa inspiegabile, la palla finisce in tribuna. Ho sbagliato io, non ho fatto un gran lavoro, non ho dato ai ragazzi le posizioni corrette. Il successivo fallo di Brooks, sempre su Clark, regala anche la differenza canestri ribaltata. Finale 87-83, 20 punti per Gaspardo, 28 quelli di Brooks. Qualche scaramuccia tra tifosi a fine partita, senza incidenti degni di nota. Udine, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Ancora per il basket di Serie A2, Gestecco Cividale giocherà a Rimini, una partita in chiave salvezza per le due squadre, con i romagnoli avanti di 2 punti sui Ducali a quota 10. Palla 2 alle 20:30. Per il calcio di Serie C, oggi seconda giornata di ritorno per la Triestina, impegnata questa sera alle 18:30 al Dognon di Fontanafredda contro l'Albino Leffe. Serve come sempre fare una prestazione importante, ci deve essere sotto tutti gli aspetti, tattici, caratteriali, tecnici e con grande concentrazione e determinazione, ha detto l'allenatore Tessera. Per il calcio di Serie D, il derby tra le due formazioni regionali, Chiarlin-Smuzzi Muzzane e Chionza, in programma alle 14.30. E torniamo a parlare adesso degli eventi del fine settimana e andiamo a Pordenone oggi e domani per la seconda edizione di Extracon, la rassegna dedicata al mondo del fumetto, del gioco e della cultura pop. Le proposte di quest'anno dalla voce del direttore artistico Lucio Campani. Allora, Extracon è partita molto molto forte nel 2023, il nostro intento è stato quello di replicare il format del 2023 andando ad integrare tante novità, tra cui ospiti straordinari come Cristina D'Avena, la regina delle sigle dei cartoni animati, che canterà domenica, mentre Giorgio Vanni, l'altro grande interprete, canterà sabato, e domenica sarà la presenza di Paolo Nespoli, astronauta italiano e orgoglio nostro italiano nel mondo. E poi tutta una serie di attrazioni dedicate a tutti, dai videogiochi di ieri che vediamo qui a quelli di oggi, e poi tutto il mondo dei giochi da tavolo, dei fumetti, del cosplay, quindi una grande festa veramente adatta a tutti. E qual è l'identikit dei visitatori e cosa cercano? Il pubblico è assolutamente trasversale. È un pubblico che va dalle famiglie agli appassionati, quindi veramente tutte le età, perché chiunque può trovare un motivo di interesse all'interno di Extracon, cioè ci sono appunto i giochi di un tempo, i giochi nuovi, ognuno può trovare appunto i fumetti della sua infanzia, sia che sia un nativo, no, degli anni 2000, che magari genitori appunto possono ritrovare tutto quello che ha caratterizzato la loro infanzia, quindi veramente una festa adatta a tutti. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Il Consorzio Culturale di Monfalcone, con sede a Ronchi dei Legionari, ha presentato un anno ricco di attività. Nella programmazione del 2024 ci sono focus su Ecomuseo, arte e storia del territorio, con ampliamenti di attività già iniziate lo scorso anno, come i progetti Arte e Territorio, anche nella versione transfrontaliera in vista del 2025, Te lo racconto io, l'amianto, e Fa che non suoni la sirena, presentati nella casa dell'Associazione di Pieris. Nell'ambito di Arte e Territorio ho presentato anche il catalogo della mostra di Salvatore Pudo, Anatomia di un territorio, che è stata prorogata fino al 17 febbraio, con appuntamenti anche sulla mostra dei Fratelli Basaldella con Davide Colombo. Il consorzio ha anche presentato un progetto Interreg No Border Art per una serie di mostre d'arte moderna e contemporanea sui due lati del confine, e prevedendone lo scambio per aumentarne la diffusione. Tra i progetti anche quello sugli 80 anni dai primi bombardamenti aerei su Monfalcone durante la Seconda Guerra Mondiale. Passiamo agli spettacoli. Stasera a Palamostre di Udine torna in scena Corvide, Sguardi di specie, di e con Marta Cuscunà e i suoi corvi meccanici. Al centro ci sono il futuro del pianeta Terra e il nostro ruolo. Abbiamo incontrato l'attrice monfalconese. Oh, chiudi il becco! No, chiudilo tu il becco! No, chiudilo tu! Chiudilo tu! Chiudilo, basta! Corvi neri con le loro lingue lunghe e i becchi affilati, nichilisti rispetto alle speranze dei giovani che lottano per proteggere l'ambiente. Eccoli che arrivano! Oh, sono milioni dietro a quella ragazzina! A dare loro la voce è Marta Cuscunà, attrice monfalconese. Corvide, Sguardi di specie è una coproduzione CSS Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia. Sì, vediamo! Lo spettacolo nasce dalla partecipazione di Cuscunà al programma di Rai 3 La Fabbrica del Mondo di Marco Paolini e Telmo Pievani, andato in onda nel 2022. Dalla TV al teatro, Sguardi di specie fa un percorso a ritroso realizzato grazie anche al Piccolo Teatro di Milano e al Museo delle Scienze di Trento. Sarà in scena sabato 13 gennaio alle 20.30 al Palamostre di Udine per Teatro Contatto. Una riflessione che ho condiviso con gli scienziati del MUSE, il Museo delle Scienze di Trento, che è tra i principali coproduttori di questo spettacolo e che credono fortemente nella necessità di un'alleanza tra il mondo scientifico e il mondo dell'arte, proprio per riuscire a veicolare in modo efficace l'urgenza dell'azione collettiva a cui siamo chiamati come specie. Quindi in qualche modo trasformare tutta una serie di dati, di nozioni scientifiche in informazioni che invece possano colpirci nel personale, possano scatenare una reazione empatica, perché davvero il tempo è poco e l'azione a cui siamo chiamati è quanto mai urgente. Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Ancora alcuni appuntamenti con gli spettacoli. Si conclude con due concerti a Rosazzo e a Trieste. Il percorso del coro giovanile regionale del Friuli Venezia Giulia con il suo attuale direttore, il triestino Mirko Ferlan. Oggi alle 19 il coro si esibirà nella chiesa della storica abbazia di Rosazzo, domani alla stessa ora nella chiesa della Madonna del Mare. A Montereale Valcellina, nella sede Arcitina Merlin, è in programma Qualcuno con cui parlare, monologo di Alberto Bebbo Guidetti della band Lo Stato Sociale. Appuntamento alle 18. In provincia di Pordenone, Nativitas si concluderà con due concerti, entrambi questa sera alle 20.45. Nel Duomo di Porcia, gli itinerari sonori della rassegna Vocis, con uno dei gruppi femminili italiani più interessanti, ovvero il Controcanto di Brescia, che verrà introdotto dal locale Ensemble 900 contemporaneamente all'auditorium di Sesto a Reghena. La corale Incanto presenterà il programma Notte di Luce. È dedicato alla presentazione del progetto di ricerca e censimento graffiti di guerra, il catasto dei graffiti della Grande Guerra, l'evento in calendario al Museo della Grande Guerra di Ragogna alle 18. Tra i vari interventi, quello dedicato alla tutela del patrimonio epigrafico e quello sugli interventi di recupero. Tra i relatori Marco Pascoli, fondatore del museo, che interverrà sul progetto e rigenerazione del catasto. Gliene abbiamo chiesto un'anticipazione. Cos'è questo catasto? È un sistema peraltro fruibile sul sito internet graffitidiguerra.it, dove dopo decenni di ricerche, che peraltro sono ancora in corso e lo saranno per tanti anni, siamo andati a fotografare e catalogare mediante una scheda di censimento le epigrafi lasciate dai soldati dei vari eserciti della Grande Guerra su quello che era il fronte italo-austriaco, quindi su tutti i territori del nord-est italiano, della Carinzia e della Slovenia, che vanno fra il passo dell'Ostesio e il mare Adriatico. La rigenerazione del catasto è stata così definita perché, con un impegno peraltro proprio del Museo della Grande Guerra di Ragogna e dei membri del gruppo di lavoro che ho il piacere di coordinare, abbiamo rifatto e rinnovato in modo importante lo strumento informatico del catasto, che è appunto pubblicato online. Un'altra cosa interessante è anche il volume delle informazioni e delle epigrafi censite, perché il catasto ad oggi produce quasi 4.000 schede di censimento, che sono fondamentalmente la metà di tutto il patrimonio conosciuto, e ancora oggi nelle ricerche che si fanno settimanalmente emergono nell'arco di ogni anno diverse decine di epigrafi non prima accatastate. E abbiamo ancora due mostre da segnalare. La prima dell'anno alla Galleria La Loggia di Udine inaugura alle 18 con le opere grafico-pittoriche di Sandro Arcangeli, mentre alle 17 c'è una prima visita guidata alla mostra Silva Lapidea, scultura contemporanea transfrontaliera, realizzata dal comune di Gorizia in collaborazione con quello di Nova Gorizia e inaugurata al Museo di Santa Chiara. A condurla le curatrici Emanuele Uccello e Pavla Yarz. Le visite gratuite, come l'ingresso alla mostra, avranno cadenza bisettimanale. E aumentano anche i visitatori del Museo dell'Orologeria di Pesaris di Prato Carnico, 11.235 gli accessi lo scorso anno, con un incremento del 16%. Grazie alla collezione di oltre 100 orologi che fanno parte del percorso espositivo e raccontano la plurisecolare storia dell'orologeria pesarina, il museo ha attirato visitatori dal Triveneto, ma anche da Austria, Slovenia e Germania. A Casarsa della Delizia è in programma il 31esimo premio cittadino dell'anno, il 29esimo diploma Humanitas e il 12esimo premio Giovane Talento, nella sala consiliare del Palazzo Municipale Burovic alle 17, organizzato da Proloco Casarsa. Il premio cittadino dell'anno sarà consegnato a Giuseppe Beppi Bazzana, 81 anni, un imprenditore nel settore macchine da ufficio. Il premio Humanitas sarà consegnato alla Corale Casarsese. Il premio Giovane Talento sarà riconosciuto all'artista Alessandro Kersovani. Adesso andiamo alle nostre rubriche. Domani sul terzo canale televisivo Rai andrà in onda alle 11.05 la rubrica Est Ovest, curata dalla nostra redazione. Un'anticipazione. EULISA, il cuore informatico del sistema Schengen, in cui è determinante il ruolo degli specialisti italiani. Nel centro di Vienna un inceneritore smaltisce i rifiuti della capitale austriaca, ma anche quelli di Roma. In Serbia si inasprisce il confronto politico e fa discutere la proposta di reintrodurre la leva militare obbligatoria. Una Gugnac, regista di Sarajevo da bambina, profuga in Italia con Escursione, affronta il tema del bullismo tra gli adolescenti. Nikola Krstović, Stefan Jovetic e Mirko Vucinic, campioni montenegrini della Serie A, scoperti da Pantaleo Corvino. Tutto questo a Est Ovest, domenica alle 11.05 su Rai 3. E ancora domattina, ma su queste frequenze, andrà in onda il nuovo appuntamento con Vita nei Campi, trasmissione dedicata ad agricoltura, ambiente ed enogastronomia. Vita nei Campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione in onda la domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai, domani in apertura parla della rete delle città del vino, sempre più numerose e attive in Friuli Venezia Giulia. A seguire, per la lettura dei corsivi di Licio Damiani, il santo padrone del fuoco, sul culto e tradizione di Sant'Antonio tra la gente dei campi. Per i legumi da granella, una scheda sui popolarissimi e proteici ceci. E ancora, la diraspatura e pigiatura delle uve, passaggio strategico della macerazione. Nella rubrica dei grandi alberi di scena i due filari di cipressi secolari del castello di Susans e per lo spazio della gastronomia popolare gli gnocchi di pane nelle loro molteplici versioni con formaggio. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo e il proverbio friulano della settimana. Appuntamento domani alle 8.50 su Radio 1 Rai con Vita nei Campi. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Alla parte tecnica Federico Comar, Caterina Cabrelli e Giampaolo Zucchi, in segreteria ha collaborato Laura Sarasini. Da Maria Spezia e Rita Micoli grazie per l'ascolto, l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.